അപ്പോൾ 5-1. Benvenuti al primo programma di questo Apple 5x1. Io sono Miguel Cabezas e questo è il nostro riassunto di oggi. Che cosa di nuovo ci porterà il nuovo anno in termini di missioni di Apple? Nel nostro gusanillo vediamo varie proposte fatte dagli esperti. Rivediamo anche le notizie di attualità della mano di non solo Apple. E quali sono stati i fallimenti più importanti nelle applicazioni di iOS nel 2012? Nel Cupertino passiamo in rassegna le peggiori applicazioni dell'anno. I nostri pensieri che ribalzano nella compote, onorando una delle più grandi che ci ha lasciato in questo 2012, un giovane di soltanto 13 anni, canta in memoria di Whitney Houston. E nelle Manzanitos, non dimenticare che potete contattarci su Twitter a @A5x1, tutto con le lettere A5x1, e anche attraverso il nostro sito www.a5x1.es, oppure contattateci via email apple51, questo è il numero, apple51.italia5x1@gmail.com. Se avete per caso di un podcast e volete sentire la tua promo nel nostro programma, lo puoi inviare anche per posta al nostro indirizzo e noi lo facciamo. Iniziamo così con il nostro numero 1, il programma numero 1 di Apple 5x1. El gusanillo. Con la venuta del nuovo anno dobbiamo fare un bilancio in quanto riguarda a quelle cose più audaci che hanno successo e che accadranno il prossimo anno, quindi le previsioni degli specialisti in quanto ci porterà della mano delle grandi imprese. Inoltre facciamo una revisione di tutto ciò che i guru della tecnologia prevedono che accadrà nell'anno prossimo nella sede di Cupertino. Ci saranno molte analogie e differenze. Chi accerterà? Non si sa fino a quando finisce, o lo vediamo nel trascorso del prossimo anno. Tutto ciò che abbiamo consultato concordano sul fatto che continuano a produrre, evidenziare un taglio degli ultimi utili annuali di Apple secondo la tendenza degli ultimi anni. Di conseguenza non la crisi, ma il ruolo che Tim Cook si gioca in tutto questo materiale, come è stato messo in discussione da diversi specialisti, nonostante i risultati finanziari della società. Da Munster, uno dei grandi consulenti americani, mezzo marzo del 2013 per lanciare un iPad mini con display di Retina, che è una quarta generazione di Apple TV, e il lancio della piattaforma musicale iTunes esteso, tipo Pandora oppure Spotify. Per suggerire il lancio il 7 di giugno, in anteprima iOS di OS X 10.9, anche in questa situazione l'evento di presentazione di una Retina MacBook Air. A settembre sapremo cosa riguarda il nuovo iPhone 5S, che si qualificano come un iPhone aggiornato a quel modesto che c'era prima, iPhone 5. E in quel giorno il nuovo iPad 5, che seguono il design esterno dell'iPhone mini 5 e iPad. Finalmente nel mese di novembre Apple lancerà la sua gamma di televisori di schermi di 42-55 pollici al prezzo tra 1200 e 1600 euro. Come si può vedere, è un elenco tutto nuovo. Allora, la prestigiosa rivista Forbes, nella lista dei 10 previsioni per la tecnologia che emergono nel 2013, dedicano ad Apple e presenta tre nuove cose. Da un lato prevede il rilancio di un MacBook Air integrato ad iOS come primo passo per la piena integrazione dei loro dispositivi e di un unico sistema operativo. La sua seconda profezia indica che a metà del 2013 Apple lancerà una versione a basso costo di iPhone o iPhone mini che chiamano loro. Questo fatto giustifica la necessità per Apple di aumentare la sua propria quota di mercato con prezzi attuali, altrimenti non poteva crescere. Finalmente, nella seconda parte dell'anno assume il lancio di Apple TV, che hanno visto sarà un duro colpo per gli altri prodotti, in quanto Apple fa con la innovazione e per la integrazione dei servizi della programmazione on demand, accessibilità iOS dall'apparecchio. Niente di più, niente di meno. Il nostro consulente terzo, specializzata nell'analisi di mercato, anche impegnata a lanciare una versione più economica di iPhone con una penetrazione di mercato del 15 oppure il 20% del totale. Apple avrebbe cercato di promuovere questo movimento in crescita dal 5% e di chiudere l'anno 2013 con una quota di mercato del 25% degli smartphone. Ha inoltre deciso di lanciare una nuova Apple TV con internet integrato e tutte le possibilità dei vostri sistemi operativi. Finalmente, Forbes ritiene anche che il MacBook Air sarà aggiornato con iOS, visto la nuova presentazione che il sistema ha sull'iPad nel mese di aprile e potrebbe stare perfettamente schermate e ripertate di seguito 14 pollici. L'obiettivo sarebbe anche unire i due sistemi operativi in uno. E lasciamo per ultimo la più rischiosa scommessa di quelle che abbiamo trovato, un bel programma di lancio per il periodo 2013-2015 e che sarebbe divisa in 10 fasi. Allora, la fase 1, da gennaio fino a marzo del 2013, quindi adesso, Apple potrebbe entrare nel mercato degli affitti di libri, iBooks, tra cui libri di testo per le scuole e anche l'università. Inoltre, in questo periodo sarà annunciato la sospensione dell'iPad 2. Nella fase 2, nello stesso periodo, la versione precedente della Retina FaceTime, MacBook Air, e l'aggiornamento di supporto a un'altra definizione per il 1080, con una seconda porta Thunderbolt. Nelle fasi 3, 4 e 5, per sviluppare, ci sarà la fine del 2013. Nella fase 3, Lightning viene aggiornato con i cavi di supporto USB 3.0. L'iPad mini diventa Retina e migliora anche i microfoni stereo e FaceTime passa a 1080 punti. Nella fase 4 appare iCloud per iPod con accesso tramite Wi-Fi. iTunes rinnovato e scompare del mercato e anche l'iPod Souffle, quelli classici. Nella fase 5, iPhone 5 migliora ulteriormente la risoluzione dello schermo da 326 punti fino a 440 e potrebbe anche essere una mossa successiva con una risoluzione di 652 punti per pollice senza modificare il rapporto di la scala. Nella prima metà del 2014 verificherebbero le fasi 6 e anche quella 7. Nella fase 6 è completamente rinnovato il Mac Mini Thunderbolt, l'aggiunta di una seconda porta e scompare il normale disco rigido, anche eliminato le porte FireWire e le porte di rete. Nella fase 7 il Lightning si muove nel cavo per il futuro dispositivo Thunderbolt iOS. Allora, arriviamo nella seconda metà del 2014, nella fase 8 determinerà l'aspetto della retina IMAG, un fulmine nuovo, in quanto l'originale sarebbe inadeguato per questi modelli. Non ci sarebbe alcun disco rigido fisico e diventando sempre SSD. La porta di rete scompare e aumenta il FaceTime a 1080. Finalmente nel 2015 si terrà le ultime due fasi. Nella fase 9 i libri si fondono con i MacBooks Pro e Air in una singola linea di prodotto denominato MacBook. GPU viene migliorata e anche integrata in questi modelli. La fase 10 sarebbe culminata con l'integrazione di iOS e OS X su un unico sistema operativo. Ficzione o realtà, questo è ciò che ora è da venire, da verificare, ma la verità è che non vi annoierete l'anno prossimo e dobbiamo ancora andare a sorprese, grandi sorprese della mano di Cupertino. Io non so quello che si pensa, ma se una mezza verità o quello che si è detto qui, ma per far fronte a questa notizia, che scelta abbiamo? Forse vendere il nostro corpo? No solo Apple. Incremento nelle misure anti-jailbreak nella futura versione di iOS 6.1. Il jailbreak è essenziale per molti dei dispositivi iOS. Uno dei più famosi hacker, conosciuto come I0N1Z, ha riconosciuto la difficoltà di fare il jailbreak per le versioni correnti di iOS. Il coraggio di dire che iOS 6.1 sarà impraticabile. Come sapete, noi non c'è ancora un jailbreak per i nuovi dispositivi come il mini iPhone 5 e iPad. Sta dimostrato che la complessità dei sistemi di sicurezza di rottura di iOS 6, che dopo la partenza di Scott Forstall sembra che sono state rafforzate. Penso che sia un peccato, ma dobbiamo cominciare a pensare che prima o poi gli hacker si straccheranno di cercare di trovare buchi di sicurezza nei sistemi iOS che di solito cercano, mentre Apple continuerà l'aggiornamento, rafforzamento della sicurezza e lasciando molto indietro gli anticipi di quelli hacker. Citica nega che l'aumento del 26% di iOS 6 è per Google Maps. Queste settimane sono state commentate un report dopo il lancio di Google Maps per iOS. Il tasso di adesione di iOS 6 era stato aumentato dal 26%, suggerendo che l'origine della bassa percentuale sopra le mappe in arrivo per Apple. Ma poco ha preso Citica, una piattaforma di grande pubblicità, di respingere tali relazioni sulla base dei dati raccolti che indicano che il rilancio di Google Maps per iOS, la crescita è stata un semplice 0,2%, e che ciò che veramente ha causato questo aumento di iOS 6 è il lancio di iPhone 5 in Cina, perché in sole 48 ore è venduto più di 2 milioni di dispositivi iOS che vengono installati in fabbrica. Onestamente, io penso di più in questi argomenti di Citica. Problemi della batteria su iOS 6.0.2. Se si sta utilizzando un iPhone 5 o un mini iPad, ad esempio, sicuro che hai visto che Apple ha rilasciato un aggiornamento del sistema iOS 6.0.2 che risolve i problemi con la connettività Wi-Fi in questi dispositivi. Tuttavia, molti utenti hanno cominciato a postare messaggi sui forum di supporto di Apple che si lamentano dei problemi della batteria di iOS 6.0.2. Apparentemente l'autonomia è notevolmente ridotta e questa batteria si scarica anche quando i dispositivi non sono utilizzati. Nel mio caso personalmente sento che il mio iPhone 5 è stato ridotto notevolmente la sua vita dopo l'aggiornamento. Infatti, quando sono andato al negozio di Apple a scambiarlo, questo mi ha consigliato di non aggiornare, perché anche loro riconoscono che Apple prima o poi deve sistemare questo errore. Quindi, ragazzi, se non si hanno problema di connessione, non attualizzare. Apple lancia una nuova pagina di stato del sistema. Apple sta rendendo più facile per il loro cliente sapere quando i servizi essenziali si trovano in difficoltà. Come? Attraverso un sito di supporto molto più dettagliato e aggiornato, diciamo. Gli avvisi vengono suddivisi in base ai servizi, ai negozi e ai cloud. Il sito comprende anche un programma dettagliato in modo da poter vedere quando si è verificato le segnalizzazioni precedenti. In partenza, la pagina di stato del sistema da parte di Apple, se hai appena detto, sono tutti servizi online, specificando di quali aveva di recente avuto problemi di inattività, in modo da sapere la prossima volta qualcosa sul vostro iPhone oppure Mac, se per caso non funziona, prima di impazzire alla ricerca di una possibile causa soluzione, andare sulla pagina di System Status d'Apple e assicurarsi che ci sia un problema generale con qualsiasi servizio di Apple. Foursquare potrebbe essere integrata in iOS 6 mappe. Apple e Foursquare hanno iniziato a negoziare la possibilità di integrare i dati del secondo sulle loro mappe, cioè mappe Foursquare e iOS 6. Potrebbe unirsi per competere con Google Maps. L'azienda ha già un accordo analogo con Yelp, che offre varie informazioni di shopping e per prenotare direttamente da Siri. Per il momento le trattative tra squadre Foursquare, IO, Mappe sono in fase preliminare, ma sono stati sviluppati nel corso delle ultime settimane. Vedremo se si arriva a compilare, a finire questa notizia in quanto ai beneficiari di tutto questo che ci sono gli utenti. Lo scandalo Apple Care in Italia è regolata con il pagamento di una multa. In tempi recenti la presenza di Apple in un procedimento giudiziario è diventato un'abitudine pericolosa che non fa altro che danni al negozio dell'Apple. Questa volta Apple si trova ad affrontare una multa per la vendita di Apple Care in Italia, dove la legge di questo paese richiede Apple di offrire 2 anni di garanzia. Non sappiamo come si sentono i clienti italiani di Apple, ma immagino felice non dovrebbe essere. Un po' come qui in Spagna, e se comprate il nostro prodotto in un Apple Store hanno un anno di garanzia estendibile a 3 se acquistiamo Apple Care. Tuttavia, se si acquistano i nostri prodotti in altri centri di distribuzione autorizzati Apple, come MediaMarkt oppure il Corte Inglese, goderete di 2 anni in più. Incredibile, ma vero. Apple Store, la corruzione nei negozi degli Stati Uniti. Allora, il giornale digitale Gizmondo ha appena scoperto uno scandalo che viene da qualche mese nell'Apple Store che la società ha negli Stati Uniti, dove alcuni dipendenti hanno gravi problemi comportamentali che minacciano l'immagine di perfezione che cerca la società Apple. La perfezione di Apple è stato rotto con i dipendenti che distruggono i dispositivi per divertimento, per organizzare feste o apertamente rubare prodotti nel backroom soltanto per piacere. Se non fossi abbastanza, i dipendenti rivelano questo scandalo anche dei dettagli che delle molestie regolari, diciamo, senza nessuna conseguenza legale. Beh, un po' incredibile, ma vero. Cupertino. Pinterest sta diventando un punto di riferimento per quanto riguarda i social network, tutti quelli che ci sono interessati in questo. Non c'è dubbio che è diventato in breve tempo un rivale importante di quello di Tumblr. Pinterest lascia andare a rete, sotto in forma di piccole bacheche, immagine, qualsiasi commento integramente con altre reti. Pinterest ha aperto le sue porte e è passato da essere una rete soltanto per invito a essere una rete pubblica. In realtà questo vuol dire che è una rete, quella di Pinterest, che esiste dal 2010, ma negli ultimi mesi ha aumentato di 10 volte il numero di utenti, quindi ha rilasciato una nuova versione della sua applicazione con lo stesso nome, Pinterest versione 2.0, universale e per tutti i dispositivi iOS, che sfrutta anche la capacità dello schermo d'iPad nuovo. L'applicazione è gratuita ed è già nel negozio, e ha anche pubblicato una versione per Android alla fine di ampliare il proprio mercato dei clienti. Quando si accede all'applicazione per la prima volta, Pinterest chiede di registrare con un sistema particolare e unico in cui il primo luogo è necessario procedere alla selezione di 5 immagini da cui si vengono visualizzate. Immagini che non hanno testo, neanche delle parole, ma servirà per definire delle categorie dei programmi che più vi interessano. Completata questa registrazione, accedere alla vostra bacheca, il display è molto colorato e anche scorrevole, diciamo, per navigare tra tutte le categorie e classificazione e di condividere qualsiasi delle immagini anche su Facebook o Twitter in modo molto semplice. Nel menu dell'applicazione è possibile selezionare delle categorie che più ci interessano per vedere le foto che sono appesi. Quando si seleziona un'immagine o come vengono chiamate l'applicazione Pins, ci permette di dividere su Facebook o Twitter, anche sulla mail, o salvarlo sul nostro rulino. Allo stesso modo, in un incrocio tra Twitter o Facebook ci permetterà di ripinearle, allora fare vedere ancora di più e in avanti ai tuoi contatti o contrassegnare come mi piace quello che facciamo tutti sul Facebook. L'applicazione ha un peso di 18 mega ed è disponibile una versione di lingue, tra quelle versioni c'è anche l'italiano. Presenta uno schermo diviso in 4 colonne di spine o immagine e un sistema di navigazione che destra oppure sinistra consente l'accesso alle categorie e alle vostre pubblicazioni. Inoltre questa ultima versione incorpora un browser che funziona molto agevolmente. Certo, Pinterest sarà qualcosa di quello che si parlerà abbastanza nei prossimi mesi. Compota de ideas. Il 12 febbraio del 2012 Whitney Houston morì in un albergo di Los Angeles. Il mondo della musica perdeva così una delle sue grandi voci e nella nostra compote de ideas non abbiamo voluto lasciare perdere questa occasione per rendere anche il nostro piccolo tributo personale. James Anderson, con soltanto 13 anni, versionava la sua canzone I Have Nothing soltanto 24 ore dopo la sua morte. Così anche noi facciamo questo umile tributo. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Well, don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Down my walls with the strength of your love. I never knew love like I've known it with you. Will a memory survive, one I can hold on to? I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hurt it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. Well, don't make me close one more door. Los manzanitos. In questo primo programma vogliamo dire che in questa sezione risponderemo alle vostre domande e parliamo anche di quelle questioni più importanti in rete. Non dimenticare che per noi è molto importante conoscere la vostra opinione, quindi noi desideriamo avere il vostro feedback di tutto quello che volete. Potete contattarci con qualcuno dei nostri mezzi a disposizione tramite email, via web, attraverso Twitter, anche cercheremo di rispondere a tutto ciò che ci chiedete. Vogliamo ringraziarvi per la vostra meravigliosa accoglienza che ci hanno dato una nostra presentazione promo e che è stata messa in evidenza per diversi giorni su iTunes. E per iniziare rispondiamo a un utente che ci ha chiesto per la musica che accompagna il promo e se non ci saranno programmi di musica. Come si è visto, nella musica di Apple 5x1 è una parte importante del programma. Ogni sezione avrà una canzone diversa. Tutte queste canzoni sono concesse in licenza per la distribuzione gratuita e le puoi trovare sul sito web di ecompositions.com oppure jamendo.com. Se volete conoscere i nomi delle canzoni ed anche degli artisti, è possibile controllare sul nostro blog. Finisce questo programma e gli diamo il benvenuto al 2013. Per noi è significato la nostra nascita in rete. Speriamo che il 2012 oltrepassa tutti i momenti difficili e che il nuovo anno ci riempie di speranza e di nuovi progetti per tutti. La frusta della crisi e delle sue terribili conseguenze lascia alle spalle con questo cambiamento e il nuovo 2013 può aprire le porte per lavorare e anche per la speranza. I migliori auguri a tutti quelli che settimana dopo settimana ci siete dall'altra parte dello schermo, alimentando le nostre speranze e anche i nostri desideri di andare avanti. E speriamo che il nuovo anno tutti i vostri sogni, tutti i vostri desideri, sorrisi, se possono diventare una realtà, tutto quello che oggi sono delle lacrime. Felice anno nuovo, vi auguro a tutti, con tutto il cuore e tutti quelli che facciamo questo programma. Qui finiamo, torniamo il mese prossimo cercando di dare il meglio che abbiamo per preparare il nostro prossimo numero. Cambia l'anno, ma il nostro impegno di raccontarvi qualcosa di nuovo non cambia. Io sono Miguel Ángel Cabezas e vi prometto di farlo. You have to take it easy. It's a matter of state of mind. You have to open up inside. It's a matter of state of mind. There is so much left to see outside. It's not such a bad word. Don't know if someone will annihilate us, if we'll have to capitulate, plus if there will be a radioactive war. Keep your nerves, please keep your nerves, turn off your TV now. But please stop questioning and keep on enjoying every little moment you live and then a breath you take. It's not worth fighting, it's not worth worrying. There is one advice you need, please take it easy. You have to take it easy, take it easy, take it easy, just take it easy, take it easy.